anche occhi grossi. Per vederti meglio. Oh, nonna, che grosse mani! Per meglio afferrarti. Ma, nonna, che bocca spaventosa! Per meglio divorarti. E subito il lupo balzò dal letto e ingoiò il povero cappuccetto rosso. Saziato il suo appetito, si rimise a letto, s'addormentò e cominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò: come russa la vecchia! Devo darle un'occhiata, potrebbe star male. Entrò nella stanza e, avvicinatosi al letto, vide il lupo. Eccoti qua, vecchio impenitente, disse. È un pezzo che ti cerco. Stava per puntare lo schioppo, ma gli venne in mente che il lupo avesse mangiato la nonna e che si potesse ancora salvarla. Non sparò, ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli, vide brillare il cappuccetto rosso e dopo altri due, la bambina saltò fuori gridando: che paura ho avuto! Com'era buio nel ventre del lupo! Poi venne fuori anche la vecchia nonna, ancor viva, benché respirasse a stento. Cappuccetto rosso corse a prendere dei pietroni con cui riempirono la pancia del lupo e quando egli si svegliò fece per correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito s'accasciò e cadde morto. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore scuoiò il lupo e si portò via la pelle. La nonna mangiò la focaccia e bevve il vino che aveva portato Cappuccetto Rosso e si rianimò. Ma Cappuccetto pensava: mai più correrai sola nel bosco, lontana dal sentiero, quando la mamma te l'ha proibito. Raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna e un altro lupo volle indurla a deviare. Ma Cappuccetto Rosso se ne guardò bene e andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver incontrato il lupo che l'aveva salutata ma l'aveva guardata male. Se non fossimo stati sulla pubblica via mi avrebbe mangiato. Vieni, disse la nonna. Chiudiamo la porta perché non entri. Poco dopo il lupo bussò e gridò: apri nonna, sono Cappuccetto Rosso, ti porto la focaccia. Ma quelle zitte non aprirono. Allora Testa Grigia gironzolò un po' intorno alla casa e infine saltò sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso la sera prendesse la via del ritorno. L'avrebbe seguita di soppiatto per mangiarsela al buio. Ma la nonna si accorse di quel che tramava. Davanti alla casa c'era un grosso trogolo di pietra ed ella disse alla bambina: prendi il secchio, Cappuccetto Rosso. Ieri ho cotto le salsicce. Porta nel trogolo l'acqua dove han bollito. Cappuccetto Rosso portò l'acqua finché il grosso trogolo fu ben pieno. Allora il profumo delle salsicce salì alle narici del lupo. Egli si mise a fiutare e a sbirciare in giù. E alla fine allungò tanto il collo che non poté più trattenersi e cominciò a sdrucciolare. E sdrucciolò dal tetto proprio nel grosso trogolo e affogò. Invece Cappuccetto Rosso tornò a casa tutta allegra e nessuno le fece del male. La storia di Cappuccetto Rosso fa vedere ai giovinetti e alle giovinette, e segnatamente alle giovinette, che non bisogna mai fermarsi a discorrere per la strada con gente che non si conosce. Perché dei lupi ce n'è dappertutto e di diverse specie, e i più pericolosi sono appunto quelli che hanno la faccia di persone garbate e piene di complimenti e di belle maniere.